Deborah, questo test di Stroop distrugge. Mi ha già messo in agitazione. 800 24 00 24. Con una precisazione, dottor colesterolo, dottora Voledo. Dottora Voledo. Claudio, vada veloce. Sì, buongiorno. Allora, sono contento di aver superato la barriera rosa. La vostra radio è formidabile, si riesce a parlare. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E non ci lasceremo mai. Ci siamo lasciati solo per un attimo, cara la mia Deborina. Per adesso? Due giorni non ci siamo incrociate. Beh, dai, diciamo poco. Adesso torniamo insieme e formiamo la coppia. La riformiamo, per la verità. Anche se la parola riforma è probabilmente la più inflazionata in questi ultimi tempi. Però quelle delle quali parliamo noi oggi sono riforme ben diverse. Allora, in Parlamento si comincia a votare per la nuova legge elettorale. Poi il neo premier ce ne ha promessa una al mese. Ma appunto, ribadisco, noi non ci infiliamo in questo dibattito. Assolutamente, infatti non ce la promessa Matteo, ma nell'aria c'è una riforma che interessa sicuramente tutti noi da vicino, riguarda le bollette di luce, gas e acqua che, contagiate direi da quest'area di cambiamento, diventano 2.0, sì. Una formula che arriva dal mondo di internet e con cui si identifica la novità, ma state tranquilli perché la cara vecchia bolletta cartacea continuerà a venirci a trovare a casa. Sì, arriverà comunque, sarà in ogni caso un po' più agile, comprensibile, più leggera, un po' meno carta, si presenterà meglio, diciamo, però ci facciamo raccontare tutto da chi ha realizzato l'impianto di questa riforma, il commissario Luigi Carbone, commissario dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, che è il coordinatore del progetto Bolletta 2.0. Commissario Carbone, buongiorno e benvenuto a Cuore Denari. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Commissario, chissà, magari siamo parenti, esatto. Commissario Carbone. Le risulta di avere qualche legame di parentela qui a Milano, commissario? Quello che ci dice è la fonte di energia, comunque, però pulito, noi siamo per il carbone pulito, si chiama iper ultracritico ed è una forma di energia molto avanzata anche del carbone tradizionale. Hai capito? Quello almeno ci unisce, oltre alla passione per semplificare per i cittadini. Mica l'abbiamo colto in castagna, commissario. Vedi? Carbone, prontissimo. Ma infatti, in arrivo, come si fa? Carbone, un nome, una garanzia. E in arrivo la bolletta 2.0, quindi si parla per questo 2015, diciamo, perché poi tutta la novità arriva dall'anno prossimo, di una vera e propria rivoluzione della bolletta per luce e gas. Intanto, commissario, quanti italiani sono coinvolti da questa rivoluzione e con quali tempi? Quando ci arriveranno esattamente le nuove bollette a casa con questo nuovo formato? Allora, gli italiani coinvolti sono praticamente tutti, perché noi abbiamo 32 milioni di punti di contatto in Italia, che sono ovviamente i contatori che abbiamo a casa, ma ogni punto di contatto ovviamente coinvolge tutti gli abitanti della casa, tutti i componenti della famiglia, quindi gli italiani, questo per l'elettrico, per il gas sono un po' di meno, ma insomma si può dire che si rivolge a tutta la cittadinanza. I tempi sono abbastanza rapidi per quello che riguarda la decisione, la riforma. C'è già una delibera dell'autorità che è stata approvata la settimana scorsa, 10 giorni fa. I tempi di implementazione, ovviamente, per le aziende che dovranno cambiare tutti i loro software e tutta la loro catena di produzione delle bollette, possono essere un po' più lunghi, quindi quando sarà pronta la riforma, diciamo che speriamo dal gennaio, insomma dall'anno prossimo, posso immaginare veramente a vedere qualche prima novità. Ma commissario Carbone, come si trasformeranno le nuove bollette? Su quali aspetti si vuole agire? Saranno bollette più semplici, quindi avranno meno voci, saranno più chiare e soprattutto anche un po' più leggere? Allora, cominciamo dalle leggere, le do 4 flash. Primo flash, leggere, si passa dalle 8 pagine di adesso a 1-2 pagine al massimo, con gli elementi essenziali, ma questo non significa che non si possono avere i dettagli, basta chiederli o cercarli sul online, ma è inutile che ti arrivi il plico gigantesco a casa. Secondo flash, leggibilità, i termini diventeranno più chiari, è inutile avere termini tecnici come servizi di vendita, servizi di rete, eccetera, eccetera. Basta chiamare le cose con il loro nome. Bravo. La spesa per l'elettricità, la spesa per il trasporto dell'elettricità, quindi per i fili che ce la portano a casa, eccetera. Terzo flash, sapere quanto si consuma, ci sarà un quadro specifico che spiegherà al consumatore quanto consuma. Secondo me questo è molto importante, perché può dare anche delle indicazioni poi per i comportamenti successivi del consumatore. Se io so che consumo molto, cercherò di stare più attento e magari faccio il giro della casa spegnendo le luci. Quarto e ultimo flash: capire bene quanto si paga. Ci saranno delle tabelle o delle porte, a seconda di come decideranno gli operatori, in cui finalmente io capisco di quei X euro che pago quanti vanno alla materia prima, cioè proprio all'energia elettrica o al gas, e quanti vanno al trasporto di questa energia fino a casa mia, quanti vanno alle tasse e quanti vanno a quelli che chiamiamo oneri di sistema, che sono una componente parafiscale, che sono altre, diciamo, altre voci di costo che il legislatore carica sul consumatore dell'energia, per esempio gli incentivi alle fonti rinnovabili, che sono pagati in bolletta e non sono pagati con le tasse. Quindi con queste quattro semplificazioni sul numero di pagine, sulla leggibilità dei termini, sul quadro dei consumi e su cosa pago, avremo una bolletta che speriamo sia renda il consumatore più consapevole di quello che succede. C'è già grande interesse da parte dei nostri ascoltatori all'800240024, per cui se volete saperne qualcosa in più, io direi, Nicoletta, che possiamo già invitarli a chiamarci, anche al 349-238-6666. Poi lasciamo il commissario Carbone, che è impegnato questa mattina a Milano con un convegno, ma noi su questi temi proseguiremo tra un po' con un altro ospite che vi andremo a presentare. Ma un'ultima battuta, commissario: questo rinnovo, questo restyling della bolletta, dal punto di vista informativo, chiamiamolo un po' così, è stato frutto di una vostra iniziativa, che però è, come dire, arrivato dopo un lungo percorso che ha coinvolto anche molti esperti di comunicazione, giornalisti. Tu sai, Nicoletta, che hanno interrogato anche me per capire che cosa si poteva fare. Come si fa? Sono stata molto onorata. E a me, per esempio, una cosa che non va giù delle bollette è la questione dei conguagli, che non sono mai comprensibili. Ne parleremo dopo, ma chi avete sentito, commissario, e chi è stato particolarmente critico? Allora, la prima cosa che lei ha detto molto giusta è stata questa del percorso. Vede, le riforme secondo me non devono nascere perché uno si alza la mattina, decide di cambiare e impone questo suo cambiamento. Le riforme devono nascere dalle esigenze, dal basso. C'è stata prima una fase di ascolto di tutti gli operatori del mondo, gli attori del sistema, quindi i consumatori ma anche le aziende, perché i consumatori lamentavano l'eccessiva lunghezza e incomprensibilità delle bollette, gli operatori e le aziende lamentavano i costi, perché stampare 8 pagine per bolletta è oggettivamente un costo. Abbiamo avuto questo percorso di ascolto, quindi è stato anomalo come cosa, perché la riforma in qualche modo discende da queste audizioni che abbiamo fatto, è stato un percorso molto innovativo. Poi abbiamo incrociato questi risultati con degli esperti della comunicazione, sono contento che lei fosse inclusa tra quelli, ma non avevo dubbi naturalmente, e quindi questo incrocio ha portato ad un documento di consultazione che, ripeto, è quello oggi pubblicato dall'autorità, che diciamo in qualche modo adesso è l'ultima fase prima della delibera definitiva. Un'ultima cosa che è importante: si può continuare a partecipare in questo percorso partecipativo. Allora, Nicoletta, preparati, perché adesso le riprendi tutte quelle che ti arrivano, ecco, di bolletta. Segni carta e penna: www.autorita.energia.it, ripeto, www.autorita.energia.it. Se va lì su, trova per il consumatore 10 schedine facili in cui si clicca sì e no, in cui si può dire, ognuno può dire ancora la sua su come vorrà la bolletta 2.0. Benissimo, commissario Carbone, grazie per essere stato con noi. Una cosa gliela dico già subito, ce l'hanno scritta al 349-238-6666, ma non è un tempo lunghissimo, un anno, per realizzare questo nuovo formato della bolletta 2.0? Siamo in fin dei conti nel 2014, nell'era della tecnologia, e quindi poi da un altro ospite ci faremo spiegare perché è necessario tutto questo tempo per, come dire, portare anche le aziende a fare questo restyling interno. Intanto grazie al commissario dell'autorità per l'energia e il gas, Luigi Carbone, buona giornata e buon lavoro. Buongiorno. Grazie a voi, a presto. Fateci sapere che ne pensate di bollette. Certamente, grazie. Nicoletta. Mi vuol dire quello che desidera? Ecco, mi è arrivata questa bolletta. E con ciò? Come con ciò? La guardi bene. 1.750.822 lire. E con ciò? E come? 1.750.822 lire. Ebbene, io ripeto a dire, e con ciò? Come con ciò? E vuol dire che le hanno conteggiato i conguagli. A me? Sì. Guardi che a me la cacciagione non piace. E non vedo chi può asserire che io durante l'anno spenda 1.750.822 lire per comprarmi le quaglie. Allora, bolletta 2.0, bolletta del futuro, però noi vogliamo stare nel presente, nel qui e ora. Allora, nell'attesa che diventi operativa, 800 24 00 24, chiamateci, prendete in mano l'ultima bolletta che avete ricevuto, andatela a prendere, c'è qualcuno che la tiene nel cassetto che sotto magari ha un fermacarte in ingresso, prendetela, raccontateci che bolletta è, da quante pagine è composta, se vi sembra salata. Diteci se c'è qualcosa che non capite, una voce, una parola che non vi è chiara. Noi siamo qua con tanti esperti. 800 24 00 24, fatevi sentire. E allora, chi ci aiuterà a risolvere questi dubbi? Cristina Corazza, direttore della comunicazione stampa dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, che iniziamo a salutare. Buongiorno dottoressa Corazza e benvenuta. Buongiorno. Grazie dell'invito, grazie di questa possibilità che ci date di raccontare e anche di dare qualche aiuto a chi ha le prese di problemi con le proprie bollette. Intanto però iniziate ad aprirla, perché qualche volta il primo errore è proprio quello, ci accorgiamo praticamente che arriva il salasso quando, dopo che lì, come dire, la busta chiusa è stata sul nostro mobiletto, Nicoletta, per qualche settimana, è ora di aprirla per andare a pagare, lì trac, ecco, sveniamo. E allora, dottoressa Corazza, i nostri ascoltatori appunto stanno facendo questo lavoro, stanno prendendo in mano la bolletta. Li aiuti a guardare un po' quali sono le voci che fanno la differenza? Qual è la prima su cui deve saltare l'occhio? Prima il commissario Carbone ci ha fatto la distinzione fra parte che riguarda le tasse, e su quella non c'è nulla da fare, è una parte incomprimibile. Il 40% della bolletta, se ci soffermiamo all'energia elettrica, se non ricordo male, giusto? Dunque, in realtà il 40% è sulla bolletta del gas. Però sulla bolletta elettrica, se sommiamo le tasse con gli oneri di sistema, arriviamo lo stesso al 40%. Mm-hmm. Mm-hmm. Quindi effettivamente una cosa importante anche per gli ascoltatori, quando viene loro proposta un'offerta con uno sconto, bisogna sempre fare molta attenzione, perché questo sconto non è su tutta la bolletta come viene detto, ma è proprio sul 50%, perché il resto sono tasse, oneri di sistema e quelle che il presidente Carbone, il commissario Carbone, ha chiamato le spese di trasporto. Quindi ecco, una prima indicazione che mi sentirei di condividere con chi ci ascolta è questo: quando vi telefonano, quando suonano la vostra porta per proporvi un'offerta con uno sconto, benissimo, però attenzione, perché non è su tutta la bolletta. Quindi insomma, le proposte miracolose dobbiamo guardarle con un pochino di sospetto, e soprattutto riguardano una componente proprio specifica della nostra bolletta. Poi ci torneremo. Siamo nella stessa lacrima, come un sole. Luce, gas e acqua sono gli indicatori dei nostri consumi domestici, ma luce, gas e acqua possono anche essere letti in una chiave di benessere e di salute. Come? Beh, anche nel nostro organismo c'è una rete elettrica, ci sono dei gas e c'è dell'acqua. Noi siamo composti per il 75% di acqua. Voi ci avevate mai pensato a leggere la bolletta secondo una declinazione di benessere? Bene, ci abbiamo pensato a cuore denari, ma soprattutto possiamo oggi avvalerci dell'aiuto e della lettura di un grande esperto e anche amico della nostra trasmissione, il dottor Attilio Speciani, allergologo e immunologo clinico a Milano. Buongiorno. Ma buongiorno a tutti. Intanto si trova in uno studio in un'area di donne. Infatti, sono elettrizzato. Infatti da guarda cosa, come però soffre. E a proposito di elettrizzato, la rete elettrica del nostro organismo è il nostro sistema nervoso. Ma è un'ottima correlazione, perché è vero, c'è questo tipo di connessione, anche perché il sistema nervoso funziona assolutamente per comunicazione elettrica meno costosa di quella che normalmente paghiamo in bolletta. però è vero, cosa deve fare un sistema elettrico? Intanto deve funzionare, cioè quello che va evitato è comunque il blackout in ogni situazione, anche nel sistema nervoso è una condizione che va evitata, e poi deve funzionare bene, senza scoppiettii e scintille da tutte le parti, perché quando le vediamo vediamo qualche cosa che inizia a fare le bizze, restiamo un attimo perplessi, anche impauriti a volte, perché non comprendiamo esattamente molti dei misteri dell'elettricità. Per cui tra poco ci raccontiamo anche gli strumenti per evitare che succedano l'una e l'altra delle due cose. E però, ad esempio, uno degli elementi che mi piacerebbe cogliere, capire, è quali sono, perché esistono delle relazioni, ad esempio, tra certi tipi di situazioni, stress, irritabilità, situazioni di sollecitazione estrema, e alcuni alimenti. Pensiamo agli zuccheri, pensiamo all'alcol, pensiamo al caffè, no? Allora mi piacerebbe capire quali sono, anche dal punto di vista dei nostri ascoltatori, alcuni degli elementi che ti fanno sentire in un certo senso la bolletta pesante, no? Ecco, allora 800 24 00 24, quali sono i cibi o le situazioni che ci fanno pagare molto sul piano del benessere, ma soprattutto sul piano del benessere del nostro sistema nervoso? Perché poi andiamo al secondo indicatore, il gas porta l'energia nelle nostre case, e noi avremmo potuto declinarlo anche chiedendo a lei di aiutarci a capire come mai a volte, nonostante il carburante che introduciamo tutti i giorni, non arrivi l'energia nei posti giusti, muscoli e testa. Però chi dice gas, vogliamo parlare chiaro: se io dico gas e lo declino per l'organismo, uno pensa alla pancia e gas addominali, e quindi non ci siamo voluti, come si dice, nascondere dietro un dito. E allora, dottor Speciani, gas, e allora parliamo di pancia gonfia. Pancia sì. Gonfie, 800 24 00 24, unitevi. È obbligatorio, anche perché se avessimo scelto l'altra opzione, dopo il file cantato e comunicato da Franco e Ciccio, sicuramente avremmo avuto un intervento di deciso in direzione opposta. Mi piace segnalare che in Europa il 12% delle persone che va dal medico di base e il 28% di chi va dal gastroenterologo si lamenta di pancia gonfia, di colite, di sindrome del colon irritabile e così via. Quindi sicuramente un elemento presente, diffusissimo, e parleremo anche dei trucchi per controllarlo, in modo che ci possa essere la possibilità di fare qualcosa di pratico e di concreto. Ma anche qui, che cosa? Quali sono i cibi, gli alimenti e le situazioni che generano gas, per capire come ovviare? Qui abbiamo le bollette chiare, precise, che devono dirti quando e come consumi. Anche sul piano del benessere ci vuole questo tipo di conoscenza e di consapevolezza. E ultimo e non meno importante, acqua con cui noi andiamo a nozze. Devo dire anche che ci avviciniamo alla stagione in cui di acqua si parla spesso, acqua per depurarsi in vista della primavera, per eliminare le tossine accumulate durante l'inverno, ma anche acqua che si accumula nei nostri tessuti, che noi riteniamo, e quindi la ritenzione idrica responsabile, almeno questa è la lettura femminile, della cellulite, della pelle a buccia d'arancia, di tutte quelle inestetismi che poi la ricerca dimostra hanno delle origini molto lontane. Ah, ma si lamentano anche i maschietti, su questo non c'è assolutamente. Dai, ma sono contenta. Poi magari non lo dicono, non lo dicono in pubblico, basta pensare, ci sono prodotti per maschietti che vengono venduti, che hanno un marketing veramente elevato, quindi. E poi li vedo in studio, quando gli faccio vedere che è una perché cosa perché mascherano coi peli, secondo esatto, me un po' che spettacolo dopo il gas addominale, naturalmente siamo veramente d'altronde però poi... Io chiedo una cosa, ad esempio, anche persone asciutte o apparentemente asciutte, dai, se si schiacciano sulla tibia, la tibia è quella tra il ginocchio e il piede, quindi è quell'osso in cui se uno sbatte contro un mobile si fa un male al caino, e quindi schiacciando esattamente lì, premendo forte col dito, ma se poi ci si accorge dove, in che punto? A metà della gamba, quindi sulla tibia, c'è una bella zona piatta praticamente, che uno dice questa è zona magra, secca, in più c'è l'osso. Provo a schiacciare, dopo un po' uno prova a passare col dito dopo pochi istanti e rimane un buchetto. E questo deve dare un'indicazione, perché quel buchetto sono liquidi trattenuti che noi spremiamo fuori in una zona che crediamo magra. E lì a quel punto uno c'è da farci un ragionamento. Quindi se la tibia si avvalla, 800 24 00 24. Guarda, la dottoressa Corazza, che nascondeva la mano, sta già facendo una prova, perché mentre abbiamo invitato i nostri ascoltatori, lo ha fatto l'autorità per l'energia e il gas, a fare una prova sul campo della propria bolletta, del grado di comprensione, qua naturalmente anche i signori dell'autorità invece fanno una prova così in diretta di benessere. Ma torniamo alle nostre bollette: energia, gas e acqua sono le parole chiave di oggi. Dal punto di vista dei denari, i consumi che facciamo si leggono nella bolletta, e appunto la dottoressa Cristina Corazza ci aiuterà a leggere le vostre. E dal punto di vista del cuore, i consumi di luce, gas e acqua si leggono attraverso alcuni segnali che ci dà il nostro corpo, come ci ha illustrato il dottor Speciani, che è pronto anche lui a rispondere alle vostre domande per ottimizzare i consumi in funzione del nostro benessere. Ma dottoressa Corazza, lei ci dirà cosa dobbiamo fare attenzione quando leggiamo la bolletta, ma ci spiegherà spiegherà anche come fare attenzione a chi la bolletta la vuole cambiare e a chi vuole farcela cambiare. Un primo stimolo ce l'ha già dato prima, a volte per telefono o direttamente alla porta ci vengono fatte delle proposte allettanti per cambiare operatore. Come possiamo fare a distinguere una bolletta, come dire, veritiera, molto promettente dal punto di vista del risparmio, da una invece che, come dire, tutte queste promesse sono solo contenute in una condizione di forma, ma c'è poca sostanza? Allora, intanto trovo molto azzeccata quest'unione fra lo stress e le bollette, perché effettivamente subire un contratto non richiesto o il cosiddetto contratto truffa è poi una di quelle cose veramente stressanti, perché riuscire a tornare indietro una volta che si è subito diciamo il contratto truffa non è una cosa semplicissima, anche se come autorità abbiamo stabilito delle procedure molto più veloci, e devo dire che per fortuna una eccellente quantità di operatori ha aderito a queste procedure più veloci. Anzi, veramente per cercare di promuovere al massimo queste pratiche positive, abbiamo anche messo i nomi di questi operatori sul nostro sito, in modo che le persone sappiano chi sono. Chi gode di buona reputazione e chi no. Il problema però è veramente vorrei che si facesse molta attenzione, perché i contratti a nostra insaputa esistono. Sono in leggera diminuzione, ma esistono. Chi di noi non ha mai sentito parlare di un amico, un parente o qualcuno che si è ritrovato con un operatore che non aveva mai scelto? Allora, le cose sono due: ci sono le vere e proprie truffe in cui vengono messe firme false eccetera, e quelle vanno subito denunciate eccetera. Poi ci sono le cose un pochino più subdole, ovvero sia di signori gentili che ti suonano a casa, ti telefonano, ti dicono: guardi, lei vuole uno sconto, e uno dice: caspita, chi di noi di questi tempi non vuole uno sconto sulla bolletta? Ti chiedono un codice che in cambio di questo sconto chiedano di vedere la nostra bolletta. E da lì che cosa fanno? Si prendono quei numeri che ci sono, il POD sulla bolletta, che è la sorta elettrica, il parallelo del codice di migrazione, diciamo, della telefonia. Esatto, è il nostro codice IBAN, è quello che ci identifica come cliente elettrico. E sulla bolletta del gas si chiama in un altro modo, si chiama PDR, ma sono dati super sensibili che hanno un grande valore, perché a quelli si agganciano poi i contratti. Ecco, quindi la bolletta non dobbiamo farla vedere a nessuno. No, qua, quando vi dicono devo controllare, diciamo no. Le altre, come dire, spie che dobbiamo fare in modo che si accendano quando qualcuno ci fa una proposta, le indichiamo subito dopo avervi raccontato cosa sta succedendo in questo momento in borsa. Cuore e denari. Debora, tu sei elettrica, bella carica, o ti senti un po' spentina? Perché lunedì è una giornata un po' delicata. Mi sento sufficientemente carica, ma quando c'è il dottor Speciani vicino a me, tu lo sai che io mi sento gonfia immediatamente, per cui devo sempre chiedere consigli. Però mi sento la ritenzione idrica ovunque, per cui ho sempre bisogno di fare particolare attenzione all'alimentazione, come tutti d'altronde. Assolutamente, no? E se la ricerca ci racconta, dottor Speciani, che l'alimentazione, e lei ce l'ha raccontato ormai da tempo, essere benessere, devo dire che è stato uno dei primi che ci anche ha spiegato voi, anche noi, anche voi. E quindi che ci ha spiegato come il cibo procuri quella forma di infiammazione silente che poi è un po' la mamma di tutte le nostre situazioni di malessere, o anche poi successivamente dell'instaurarsi di alcune malattie. Quindi anche il gonfiore a cui faceva riferimento Deborah, la ritenzione idrica, così come una gestione un po' faticosa degli eventi stressanti o anche tutta una serie di malessere di cui oggi andremo a parlare, possono trovare un po' la loro spiegazione in questo, nel nostro stile alimentare troppo raffinato, troppo squilibrato, poco attento agli equilibri ormonali. Dottor Speciani. Ma non solo, direi che c'è anche questa nuova visione che sta aiutando a capire come certe citochine infiammatorie, cioè le sostanze infiammanti, in realtà possono essere studiate in maniera più precisa e soprattutto misurate. La gente è espertissima, adesso con i telefonini sanno tutti come funziona una batteria al litio, una cosa eccetera. Ecco, questo stesso tipo di problema si pone con l'infiammazione interna, cioè ci sono citochine, diciamo atomi di litio se vogliamo fare lo stesso tipo di confronto, piuttosto che altro, che si mettono in movimento, che si muovono. E ci sono scienziati che studiano attentamente questo tipo di meccanismo, congressi internazionali importanti, uno prossimo Ventura a cui parteciperò anch'io, ad esempio nei prossimi giorni, proprio su come si possa studiare in modo scientifico la nutrizione da questo punto di vista. E però l'elemento cardine, soprattutto sul piano della parte nervosa, è quella del capire che ci sono alcuni alimenti, alcuni cibi che sono consumanti in un certo senso, magari apparentemente significativi perché ti danno un'apparente carica, e poi dopo un poco in realtà ti danno un senso di vuoto. Cito specificamente alcune sostanze tipo l'alcol. Sì, che può dà dare la carica, un'immediata no? sensazione di euforia, benessere, e poi in realtà l'organismo è fatto in modo come le batterie, che in realtà quando devono dare un effetto booster, si chiama, c'è cioè una carica improvvisa, e poi si trovano un pochettino spompate dopo. La stessa cosa fa lo zucchero, ad esempio i cibi prettamente dolci. Oh, quando io mi riferisco al dolce mi riferisco proprio allo zucchero usato per dolcificare, perché quando in realtà si mangia un dolce sano fatto, prima mi guardavo appunto Deborah dicendo vengo da un weekend fatto a casina con mamma, biscotti e crostate a gogo, quindi però io me la immagino, come mi immagino una situazione del genere, con una torta fatta con farina integrale, con uova, con burro, con latte, con nocciole, con mandorle, cioè proteine e carboidrati mischiati bene con un indice glicemico basso, e allora a quel punto è come se uno mettesse dentro una carica a lunga gestione. Se invece uno si mangia lo zucchero di botto, ecco che improvvisamente ci sono degli effetti up immediati di benessere, ma nel giro di 15 minuti un down improvviso che ci fa sentire vuoti e ci fa venire di nuovo fame, per cui certo, rimangiamo e diventiamo cicciotti. Promossa la mia torta alla noce. Bene. Allora, alle noci. Poi potevi anche portarcene un pezzettino, ma vorrà dire che in settimana Deborah farà Devo dosare bene le noci, l'ho fatto per voi, erano poche. 800 24 00 24. Allora cerchiamo di capire, partiamo da queste nostre tre parole chiave che sono luce, elettricità, sistema nervoso, gas, e ci orientiamo verso la pancia, il gonfiore addominale, acqua per depurarsi, ma anche quell'acqua che non riusciamo a eliminare, la famosa ritenzione idrica. Cerchiamo di collegarla ad alcune situazioni, ad alcuni alimenti che peggiorano la situazione, ci fanno pagare, come si dice, una bolletta salata. Mm-hmm. Abbiamo Mario che ci chiama da Modena, buongiorno. Buongiorno a voi. Mario, eccoci qua. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno anche a lei. Niente, Mario. Io ho questo problema di ritenzione idrica sul, diciamo, dal ginocchio in giù. Abbiamo pescato subito. Io guido molto, sto molto seduto, eccetera, e ho sto problema e volevo avere qualche consiglio su come combatterlo, ecco, tutto lì. Vede che la tibia ha colpito. Siamo tutti qua che ci tocchiamo per vedere se abbiamo un avvallamento. Noto sempre di più nei negozi anche queste calze contenitive per gli uomini, che sono un po' più belle di quelle per le donne. Mannaggia, ma questo, dottor Speciani, non riguarda lei. La prima cosa da chiedere a Mario è proprio il tipo di assunzione alimentare. La cosa che normalmente chiediamo in una persona che abbia un trattenimento di liquidi di questo tipo è di ridurre un poco il quantitativo di sale che viene utilizzato nei cibi. Facciamo presente che una prima colazione a base di biscotti, brioche e latte e un panino mangiato a metà della mattina già apportano qualcosa come 7 grammi, 8 grammi di sale, e noi dovremmo mangiare quindi solo con neanche arrivare al pranzo, perché se poi al pranzo in realtà mangiamo anche del salame, del prosciutto, del formaggio parmigiano sulla pasta, piuttosto che, ecco che il quantitativo di sale cresce. Non è negativo in sé, anzi non si può stare senza sale, ma può essere limitato. Ad esempio una prima colazione fatta con dei fiocchi di cereali senza sale aggiunto, un qualcosa mangiando 3-4 mandorle, due noci come si diceva prima a metà mattina per spezzare la fame, uno vuole dei carboidrati, mangi una patata bollita che non contiene assolutamente sale, ed ecco un po' che indietro di cottura, un po' indietro di cottura, sì. Fantastiche siete, bellissime, e questa cosa già porta ad una riduzione del trattenimento di liquidi, e quindi arrivare al pranzo già questa questa prova Mario la può fare tranquillamente anche alla guida. Si ricordi però che adesso la voce sembra giovanile, se invece fosse camuffata bene, fosse in realtà un pochettino più avanti negli anni, qualche movimento, nel senso che quando uno ha le gambe gonfie, ferme e guida, il fatto di scendere, fare un giro intorno alla macchina, fare due flessioni e muoversi un po' aiuta ed evita di avere anche problemi di tipo venoso dopo. Perfetto. Chiamateci naturalmente anche se il vostro sistema nervoso fa scintille quando arriva la bolletta. Bravo, oppure se la vostra pancia è gonfia, ma lì sulla pancia gonfia bisogna intenderci, perché diciamo genericamente la pancia gonfia, ma il dottor Speciani ci aiuterà a fare un'autovalutazione. Ottimo, ritorniamo invece alle nostre bollette, alla rivoluzione della bolletta che arriverà a gennaio del prossimo anno, l'arrivo della bolletta 2.0, niente di particolarmente compresso dal punto di vista tecnologico, in realtà sarà molto più snella, due pagine invece delle attuali 8, tra l'altro dottoressa Corazza, riguarderà sia quella del gas che quella della luce, ma non quella dell'acqua, mi ricordo male? Dunque, per la bolletta dell'acqua in realtà già da quest'anno sono arrivate delle novità, nel senso che deve essere più chiara, più trasparente, e soprattutto abbiamo introdotto l'obbligo come autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di mettere sul sito, ogni gestore deve mettere sul sito la carta dei servizi, che in realtà è una carta dei diritti, no? Con tutte le, diciamo, tutti i diritti nel servizio idrico del cittadino. Va detta la verità che nel settore idrico non siamo ancora alla bolletta 2.0, anche perché l'autorità si occupa da più di 16 anni di energia elettrica e di gas, di acqua sostanzialmente da 2 anni. È un settore molto interessante ma più complesso e più articolato, per cui per arrivare, diciamo, a quel grado ormai di, come posso dire, trasparenza e chiarezza, sì, no? Devo dire che questa nuova direttiva, che si chiama proprio direttiva sulla trasparenza della bolletta dell'acqua, è in vigore da gennaio di quest'anno. Sappia chi ci ascolta che adesso stanno partendo anche, diciamo, dei controlli, delle verifiche della nostra direzione vigilanza e controlli assieme alla Guardia di Finanza, proprio per, nel settore dell'acqua. Questo senza dare un'accezione brutta che è un settore che non funziona, assolutamente no, anzi, ma è per dare maggiori garanzie, per vedere come vengono fatte la rilevazione dei consumi, come vengono gestite tutta una serie di situazioni, diciamo è ulteriore garanzia. Ottimo. Ecco. Allora, noi dobbiamo sentire cosa sta succedendo sulle strade italiane. C'è Pierfrancesco da Bergamo che attende lì da un po', gli chiedo a questo punto un altro 30 secondi di pazienza e poi lo sentiamo, perché credo che abbia fatto un passaggio al Mercato Libero che non è andato avanti con grande successo. Ha avuto qualche intoppo? Pierfrancesco ce lo racconta tra un attimo. Cuore e denari. E insomma, una telefonata con le offerte la riceviamo tutti quanti frequentemente, non riguarda solamente il mercato dell'energia e del gas, ci arrivano proposte per cambiare l'abbonamento del nostro telefono e non solo, però insomma dobbiamo qualche volta tentare di fare anche delle domande che lascino capire al nostro interlocutore che ne sappiamo, quindi non dobbiamo per forza subire queste proposte che a volte ci sembrano veramente molto interessanti dal punto di vista del risparmio, poi quando arriva la bolletta invece così non. Ed è quello, credo, che è capitato a Pierfrancesco da Bergamo. Buongiorno. Pierfrancesco? Pierfrancesco si è stancato, ci ha abbandonato, ma io vado da Pierina, dalla provincia di Pavia. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci a lei. Le donne, come sempre, sono più affidabili. Ma com'è sta storia? Pierina. Siamo serie. Brava, una parola ha detto tutto, Pierina. In realtà lei non ha fatto nessun cambio, ma effettivamente introduce un tema che noi abbiamo cavalcato molto qualche anno fa. Pierina, buongiorno. Buongiorno a lei. Ci dica. Allora, io chiedevo se in tutte queste trasformazioni che subiranno le bollette c'era magari tra le ipotesi di variazione qualcosa che riguarda le fasce orarie a tariffa ridotta. E poi, perché specie per il gas io do la lettura oppure vengono loro ogni 6 mesi, mi sembra, controllano il contatore, e poi c'è sempre la voce di conguaglio che quando poi si realizza il conguaglio, cavoli. È bello, bello tosto. Beh, Pierina. Non capisco, se si danno i numeri, se loro li controllano ogni 6 mesi, perché si origina il conguaglio? Pierina, la ringrazio, un tema molto caldo, all'autorità che combatte queste modalità di fatturazione che continuamente stima i consumi, no, degli utenti, dottoressa Corazza. Partiamo però col tema delle tariffe biorarie, che qualche anno fa abbiamo, come dicevo, appunto spiegato in lungo e in largo ai nostri ascoltatori, significa consumare in certe fasce della giornata, perché naturalmente si consuma appunto di meno, come dire, la fatturazione in bolletta era più leggera, con però un po' di contrasto all'interno dei condomini. Anche questo era un tema che abbiamo affrontato con l'ex presidente dell'autorità del gas, mi ricordo, dottor Ortis, Alessandro Ortis. Detto questo, oggi sono un po' meno convenienti, vero? Sì, come ha spiegato anche il nostro presidente Bortoni recentemente alla Camera, il problema è che le biorarie sono state introdotte nel 2010, sì. e in realtà non erano state introdotte semplicemente per far risparmiare, erano state introdotte perché consentivano ad ognuno di noi di pagare l'energia elettrica al costo che aveva nel momento del nostro consumo. Quindi a quell'epoca, nel 2010, c'erano dei prezzi molto alti nelle ore centrali della giornata, dei prezzi più bassi verso sera e dei prezzi ancora più bassi nel weekend, no? Nel weekend dopo una certa ora della sera. Cosa è successo dal 2010 in poi? Sono successe due cose importanti. La prima è molto positiva: c'è stata un'esplosione di produzione di fonti rinnovabili, fonti verdi, fonti pulite, sostanzialmente fotovoltaiche, che ovviamente quando producono nelle ore centrali della giornata, no? E quindi i prezzi si sono ridotti nelle ore centrali della giornata, ma si sono alzati per converso nelle ore serali. In più c'è stata la crisi che ha fatto diminuire la domanda, e questo ha provocato una mutazione, cioè nelle ore che prima erano più favorevoli adesso non lo sono più. Allora, noi abbiamo fatto la solita, perché è proprio il nostro modo di procedere come autorità per l'energia, grande consultazione con associazioni dei consumatori, operatori, eccetera, eccetera, dicendo: signori, il mondo è cambiato, cosa facciamo? Cambiamo anche le biorarie, visto che i segnali di prezzo non sono più quelli che erano prima. Le differenze. Differenze. È venuto fuori che sarebbe stato talmente complicato, perché bisognava fare mezzo pomeriggio del sabato, però tutta la domenica, dalle 23 di sera in poi fino alle 7 del mattino, insomma molto complicato, era stato deciso di lasciare tutto così com'era, anche perché poi le mutazioni nel mercato elettrico, cioè oggi siamo in questa situazione, ma magari fra un anno o due la domanda riprende e succedono altre nuove tecnologie e cambiano di nuovo le fasce. Adesso invece c'è una legge, Destinazione Italia, che ha messo il focus su questo, chiede di intervenire sulle biorarie, vedremo come farlo. Però devo dire onestamente che le biorarie, cioè il vero risparmio sta nel comportamento attento e consapevole. Ma posso fare una domanda? Certo. Lei la lavatrice quando l'accende? Quando è che fa, non so, lava il sabato e la domenica, quando dopo una settimana di lavoro arrivo mi tappo in casa, come ho me. Accumulato questo mondo e quell'altro e sbatto tutto dentro. Quindi lei preferisce, questa è l'indicazione, il sabato e la domenica? Io preferisco il sabato e la domenica, anche perché la sera onestamente può succedere che uno dia fastidio ai vicini, poi io ho 3 kilowatt, quindi se accendo la lavatrice la sera non posso accendere la lavapiatti, e quindi bisogna... si ottimizza un po' si diversifica. Tu invece che fai? Io devo dire il sabato e la domenica, ma qualche volta lo faccio anche alla sera, non sera tardissimo, ma anche tanto che mangio, che durante la cena magari una lavatrice me la faccio. In casa Speciani che succede? Variabile la situazione. Ma il dottor Speciani non lo sa, che non la fa la lavatrice il dottor Speciani. Non lo fa, ma l'ascolto. Come tutti maschi, come molti maschi. Le donne infatti poi borbottano, esatto. Come faccio io con mio marito. Posso dirvi la cosa molto interessante, che quando nel 2010 sono state introdotte le biorarie, la cosa più interessante era che tutte le mogli dei nostri dirigenti maschi volevano sapere come funzionava, e quindi insomma loro si sono dovuti mettere maniche rimboccate a capire un attimo meglio com'era tutta questa... Torniamo per un attimo, che dice la pancia gonfia, ma non ci siamo dimenticati della questione delle letture, dei nostri consumi e la fatturazione sui consumi presunti, perché è una roba che proprio ci irrita, quel fermentino elettrico ce lo fa venire. Fa saltare il sistema nervoso, come si dice, come si diceva una volta. Mi fa venire il sistema nervoso. 800 24 00 24, sì, vogliamo, a proposito di moglie che borbottano, anche la nostra pancia, chissà, quella dei tanti ascoltatori che ci stanno stanno seguendo dalla macchina, magari la pancia borbotta e tesa e gonfia, stare alla guida non aiuta, ma neanche il nostro stile di vita, mangiamo male, troppo e velocemente, ma dottor Speciani, queste sono in parte le ragioni che possono spiegare quel gonfio addominale, quella difficoltà a digerire, quella tensione che molti di noi avvertono in quella zona che è intorno all'ombelico, localizziamola, ma non basta dire pancia gonfia, abbiamo una scheda che ci aiuta a capirne di più. Il gonfiore. Quando dici ho la pancia gonfia? Dopo i pasti o in altri momenti della giornata? È una sensazione o devi allentare la cintura o sbottonare i pantaloni? Il dolore. È localizzato in un punto particolare o interessa tutto l'addome? Noti che si acuisce in concomitanza dei pasti? O si manifesta di preferenza in occasione di eventi stressanti? La tensione. Ti capita di sentire la pancia tesa e contratta? Toccandola, questa sensazione è confermata o invece al tatto risulta normale? Il movimento. La tua pancia sussulta? Si contrae e ti costringe a correre in bagno? E una volta assecondata, è soddisfatta o dopo poco ti fa correre di nuovo? La pesantezza, alias la fatica a digerire. Il classico peso sullo stomaco. Bene, vi siete riconosciuti? Non dovete fare altro che chiamare il nostro numero verde o continuare a mandarci messaggi, seguirci su Facebook o su Twitter. Dottor Speciani, prima di andare al GR, abbiamo un minuto per anticipare quello di cui parleremo nella seconda parte della trasmissione. Che è proprio spiegarci come e perché l'infiammazione genera questo tipo di fastidio. In realtà la stessa cosa che abbiamo visto prima per il trattenimento di liquidi. Perché voi a casa che cosa fareste se aveste un tappetino che sta bruciacchiando? Cosa ci versate sopra? Acqua. Certo. Lo stesso fa l'organismo, butta liquidi, per cui ispessisce la tibia, dove tutti prima ci siamo misurati e toccati, no? E lo stesso fa con la mucosa intestinale. Quindi ci sono proprio questi aspetti che derivano da una infiammazione da cibo, da una possibilità di profilare un quadro nutrizionale individuale di ciascuno per trovare un miglioramento, che è la prima parte. Io parto sempre dal fatto che la gente possa migliorare con le proprie mani, con gli strumenti, perché significa riavere in mano le redini della propria energia. Scusi se lo dico con la dottoressa Corazza qui di fianco, ma mi sembra un bel paragone. Assolutamente, noi andiamo a sentire il nostro GR, certo. Ritorniamo subito dopo insieme. Ritorniamo subito dopo, ricordando anche che spiegheremo agli ascoltatori come si può chiedere il bonus luce e gas, perché è ancora in vigore per le famiglie che hanno qualche difficoltà economica. Tra poco. Cuore e denari. Ed eccoci ritrovate, ancora buongiorno a tutti da Deborah Rosciani e da Nicoletta Carbone. Oggi stiamo facendo dei conti, stiamo conteggiando i nostri consumi, li leggiamo come sempre secondo la filosofia di Cuore e Denari, con un occhio alla salute e uno al portafoglio. Ci stanno aiutando stamattina dottoressa Cristina Corazza dell'Autorità per l'Energia e il Gas e il dottor Attilio Speciani. Dottoressa Corazza, rispondiamo alla sollecitazione che ci ha proposto prima un'ascoltatrice che ci diceva: ma insomma, io non capisco perché ho passa l'operatore e mi fa la lettura dei miei consumi, o la trasmetto io, si può fare telefonicamente, si può fare con la mail, si può fare in tanti modi, anche andando direttamente agli sportelli delle società che ci forniscono questi servizi, poi quando arriva la bolletta il numero che fornisco io non c'è mai, non compare mai e comunque si fattura quello che l'azienda presume io abbia consumato. Questa prassi che proprio non ci va giù, cambierà? Beh, intanto se la signora Pierina si consola, ho lo stesso problema anch'io in questo momento. Però adesso battute a parte. Allora, lei vive a Roma, sì. E c'è un problema che è un po' più ampio, che è quello, sì, sul quale non la faccio pronunciare, perché veramente gli state andando dietro da un sacco di anni, che è quello di Acea. Sì, ricordo che adesso Acea si è impegnata ad abolire completamente le famose code di fatturazione, le famose stime. Vediamo che cosa fa. Entro quanto lo faranno. Allora, tornando al problema della signora, molto giusto. Allora, intanto la buona notizia è che da quest'anno scatta l'obbligo di introdurre anche nel settore del gas i contatori intelligenti, quelli per i quali i consumi vengono letti direttamente dall'operatore del gas e quindi non ci dovrebbero più essere queste differenze. Certo, quando ci si ritrova con queste grosse differenze, io volevo dire guardiamo bene la bolletta e chiediamo anche aiuto, cioè telefoniamo subito al nostro operatore per capire come mai, E un altro aiuto potrebbe venire dal nostro numero verde che io vorrei dare a tutte le persone che ci ascoltano, perché è un servizio gratuito, è un servizio istituzionale dell'Autorità per l'Energia, è un servizio che ha un grado di soddisfazione altissimo, è l'800 166 654, funziona dalle 8 di mattina alle 6 del pomeriggio, e questo call center si possono chiedere informazioni e sapere quali sono i nostri diritti. Per esempio, ecco, signora Pierina, quando il nostro gestore del gas non ci invia in tempo utile le letture, noi in realtà abbiamo diritto a degli indennizzi. Ecco, questo è importante saperlo. Lei telefoni adesso al numero verde, o casomai attraverso Deborah e Nicoletta, noi, certo, Carbone, si mette in contatto con me e ne parliamo direttamente, perché appunto c'è un diritto molto specifico. Un problema che, così, tutti quelli che ci ascoltano, che un indennizzo non è la stessa cosa del rimborso di quanto abbiamo pagato in più sulla base della stima presunta dei consumi. L'indennizzo è per mancata lettura del contatore. Allora, nel mondo del gas c'è un problema diverso dal mondo elettrico, che spesso i contatori sono nelle case, quindi è meno facile leggerli con frequenza. Ovvio. Però l'autorità ha stabilito un obbligo di almeno 2 tentativi l'anno. D'accordo? Ecco, è importante bene fare l'autolettura. Se questi 2 tentativi l'anno non vengono fatti, scatta l'indennizzo per il consumatore. L'altra domanda che la signora Pierina mi sembra stesse facendo. Abbiamo esaurito, era sulle biorarie, mi sembra. Infatti. Le abbiamo risposto. Benissimo, sì. Ricordiamo ancora, magari. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per interpellare Cuore e Denari sui temi di questa mattina. Invece il numero dell'autorità, lo ribadiamo, è la stessa cosa dello sportello del consumatore? Sì. Esattamente. Perfetto. È 800 166 654, c'è un call center e poi c'è anche un'unità reclami che per chi avesse già fatto reclamo al proprio operatore ma non ha avuto una risposta dopo 40 giorni, o ha avuto una risposta che non gli serve sostanzialmente, può scrivere a quest'unità reclami. Ultima cosa, abbiamo anche da quest'anno un servizio conciliazione gratuito online, sempre fatto dall'autorità, praticamente dal proprio computer, senza dover andare da avvocati, eccetera. Ci sono degli esperti formati dall'autorità che cercano di aiutare a trovare una composizione, certo, fra l'operatore e il cliente, sperando di non dover arrivare a litigare. Più ci informiamo, più leggiamo, più siamo consapevoli. Molto giusto quello che stava dicendo prima Nicoletta o Deborah, adesso non mi ricordo, se il venditore porta a porta, chi ci fa l'offerta, capisce che noi non siamo degli sprovveduti ma sappiamo qualche cosa, stanno molto più attenti a rifilarci, certo, la famosa pacco, si direbbe. Eccolo, ecco. Là. Perfetto. O sola, come o dite sola a Roma. Roma, diciamo sola. Mm? Sì. Siamo partiti dai contatori intelligenti, dottor Speciani. Facciamo anche noi delle scelte intelligenti quando mettiamo a tavola alcuni alimenti. Insomma, tante volte noi abbiamo cercato di combattere un po' quell'idea che è un po' ormai un po' vecchietta, dell'idea che per stare bene bisogna stare a dieta. Noi diciamo invece ti meriti il meglio, cerca di mangiare bene. Tutto questo ti porta a stare bene, perché ormai il cibo, lo sappiamo, è il nostro carburante, sappiamo che parla con i nostri geni, che è responsabile del nostro benessere ma anche del nostro malessere, che qua leggiamo oggi leggendo appunto le nostre bollette, come il sistema nervoso e anche la gestione dello stress, il gonfio addominale, la ritenzione idrica. Quindi, dottor Speciani, tutto parte da quel carburante, da quell'energia che, come dice lei, attraverso il sole arriva alle piante. Non voglio rubarle questa piante, bella piante, terre ed animali, e diventano la nostra energia. Io a volte dico che i cibi sono i fotoni del sole che si camuffano da sostanza biologica per diventare la nostra energia, che serve così completo per pensare, vivere, amare, fare le cose che amiamo di più, e quindi è un segno positivo. Poi questo lo dico perché una delle cose con cui mi confronto maggiormente è la sensazione di cibo nemico. Il cibo, se è buono, se è fatto bene, se ha delle caratteristiche di preparazione valide, è un amico assoluto. E infatti oggi, stamattina ad esempio, ho messo online su Eurosalus un articolo sui colori degli alimenti per le loro capacità antiossidanti, quindi parlavo di mirtillo, volatili, di macchi, di mais rosso, di sostanze che hanno una valenza e una potenzialità come i nostri frutti di bosco, per dire, che sono dei toccasana per tutti. Allora, questo è uno dei temi, le cose semplici che possiamo fare per migliorare questo quadro, il famoso, ormai è diventato un mantra che usiamo, che è il concetto di crudo, vivo e colorato prima di mangiare qualsiasi altra cosa. Il fatto di sgranocchiarsi mezza carota, un pezzo di finocchio, uno spicchio d'arancia, qualcosa di questo genere, prima di mangiare qualsiasi altra cosa, prima colazione compresa, perché poi la gente pensa che si mangi solo a pranzo e a cena, no, la prima colazione è un punto importante, determina un apporto di antiossidanti, determina un miglioramento della tolleranza nei confronti degli alimenti, quindi è una di quelle cose che costa poco, che non incide sulla bolletta e che però la migliora nettamente. Seconda, che è quello che io do rispetto all'indicazione sul masticare. Perché la posata si chiama così? Perché la posata va posata e quindi va messa giù tra un boccone e l'altro, perché a volte la gente tiene in mano la forchetta e continua a mettere dentro un boccone dopo l'altro, in realtà senza masticare. La masticazione è profondamente importante e quindi aiuta anche a affrontare in maniera positiva, a creare una digestione completa dei cibi che mangiamo, quindi a liberare queste energie che poi diventano la parte fondamentale costituente delle nostre batterie. Prima abbiamo già segnalato che esiste un concetto di profilo alimentare individuale, lo dico perché fuori onda abbiamo discusso proprio delle quali sono i cibi che possono dare fastidio. Non ci sono cibi che possono dare fastidio, si sta scoprendo che a volte è la ripetizione sistematica di un alimento. Allora vediamo, ad esempio, noi mediamente mitteleuropei abbiamo reazioni a latte, frumento, lieviti, cioè queste sostanze, i giapponesi al riso e alla soia, cioè spesso sono le sostanze che mangiamo di più, e quindi a volte anche solo semplicemente riuscire ad inserire, io li chiamo i digiuni benedetti, no? Nella tradizione storica di tutte le culture popolari c'è il venerdì di magro, il sabato kosher, cioè elementi che possono portare semplicemente ad un filtro, ricordandosi che l'organismo ha bisogno di varietà ed è uno delle importanti elementi positivi che possono mantenere la buona salute, perché la varietà è la madre del nostro benessere. Assolutamente. Noi non possiamo continuare a ripetere la stessa cosa, dopo un po' ci si annoia. Infatti, e di questo tema, dottor Speciani, perché noi lo chiamiamo dottor Noce, dottor Speciani, perché ci ha insegnato a introdurre i semi oleosi nella nostra dieta. No, ma ci sono anche le mandorle e pistacchi, i pinoli vanno bene. I pinoli benissimo, ecco, sono quelli che mangio io più frequentemente. Di tutti questi temi, l'ha anticipato il dottor Speciani, si parlerà al congresso internazionale Science Nutrition, e il dottor Speciani, lei sarà uno dei relatori di questo appuntamento, in cui saranno presenti grandissime personalità del mondo della ricerca, anche l'inventore dell'indice glicemico, sì, e molti Jenkins, altri, organizzato dalla Fondazione Paolo Sorbini. Perché dico questo? Perché è un convegno internazionale un po' per addetti ai lavori, solo per medici, ma in realtà c'è la possibilità anche per noi di entrare dentro a questa organizzazione facendo delle domande sulla pagina Facebook che è stata proprio ideata. Quindi anche tu e io, Deborah, possiamo fare le nostre domande. Allora, prima andiamo a questo convegno, poi a fine marzo andiamo invece al Salone del Risparmio per fare tutte le domande sui temi di finanza, che pure quelli sono apparentemente un po' complessi, però se ci avviciniamo, no? Possiamo apprendere anche le nozioni di finanza che generalmente ci sembrano un po' distanti da noi. Allora, ricorderemo poi l'iniziativa di Cuore Denari e Vitali, certo. Lo facciamo subito? Facciamolo subito, perché sennò va a finire che ce ne dimentichiamo come sempre. Ma guarda che parliamo pure nello stesso modo. Come le gemelline siamesi. Comincia tu, sennò qua finiamo più. Allora, nel mondo parallelo dell'ostetricia è l'incipit per la parte per i racconti di cuore, scritto naturalmente dal nostro amico Andrea Vitali. La parola che deve comparire nel vostro testo è pensiero. L'incipit di Denari invece riguardava le crisi di governo, se non mi ricordo male, perché adesso qua sono in difficoltà. Mi ricordo però molto bene la parola che ho chiesto di inserire, che è lampione, perché tra l'altro, ovviamente parlando questa mattina di luce, energia, gas ed energia, non potevo non onorare anche l'autorità del gas ed energia che è qui stamattina con noi. Avete tempo di inviare i vostri racconti solo sul nostro sito, quindi non mandateceli via, esatto, a Cuore perché Denari, non possiamo, perché accontentarvi. Non possiamo, e avete tempo sino al mezzanotte di martedì, di domani, quindi scrivete, ma adesso parlate, perché spazio alle vostre telefonate, 800 24 00 24. Sentirei Valentina da Milano, perché ci dà l'opportunità di spiegare come funziona il bonus dell'autorità. Valentina, buongiorno, 800 24 00 24, poi sono pronti anche Liliana da Bologna e Leonardo dalla provincia di Rimini, ma partiamo con Valentina. Valentina, ringrazio per grazie la possibilità. Grazie a lei, ci dica. Una domanda velocissima. Io ho fatto richiesta per il bonus, sia luce che gas, mi è stato accettato. Nel frattempo però ho cambiato fornitore e la domanda è proprio questa, se la domanda che appunto mi è stata accettata, se viene trasferita di conseguenza oppure sono io che devo andare a informare il nuovo fornitore. Se deve rifare tutto da zero. Valentina, grazie, scuoteva la testa la dottoressa Corazza. Passa in automatico l'informazione? Passa in automatico, però per sicurezza faccia un colpo di telefono al numero verde 800 166 654. È in automatico il passaggio, però meglio una telefonata in più che non un bonus. Esatto. Allora, quanto vale questo bonus, dottoressa Corazza? Cosa dobbiamo fare per richiederlo e soprattutto chi ne ha diritto? Allora, dunque, per avere delle informazioni specifiche su chi ha diritto al bonus, meglio andare a vedere sul nostro sito www.autorita.energia.it oppure chiamare il solito numero verde che abbiamo appena detto prima. In sostanza, molto sintetici, il bonus viene concesso ai malati molto gravi che hanno bisogno di apparecchiature salvavita e può arrivare anche fino a mezzo milione quindi l'anno. Quindi macchinari energivori, come sì, si dice. Sì, 500 euro l'anno, scusatemi. Invece per le famiglie numerose ci deve essere una soglia ISEE di 20.000 euro l'anno, per gli altri soggetti 7.500. C'è stata la riforma dell'ISEE, ci sono quindi delle novità positive. Il bonus nel mondo elettrico può andare da un minimo di 40 euro fino a un massimo di 300, nel mondo del gas è più alto, molto più alto, però dipende dalla località climatica. Certo. Quindi il bonus non sarà uguale per chi vive a Roma piuttosto che per chi vive a Bolzano piuttosto che a Palermo. E quindi insomma la documentazione, lo ricordo, per richiedere il bonus può essere scaricata online sul sito dell'autorità, ma se non siamo in grado possiamo farci aiutare anche da un centro di assistenza fiscale vicino a noi. Anche da un'associazione dei consumatori. Molto bene. Perché sono attrezzate, hanno anche dei servizi ottimi anche loro. Andiamo a Bologna a proposito, l'Italia non è tutto uguale. Liliana, buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo fare una domanda al dottor Speciani. Soffro di pancia gonfia, ma non solo di pancia gonfia, anche di stomaco gonfio. Non so perché a me si gonfia anche lo stomaco. Ma non è mica sola, sa? C'è tanta gente. Guardi, Liliana. Liliana. Il problema è questo. Io ho il fibrinogeno alto. Siccome ho sentito parlare da voi di infiammazione e so che il fibrinogeno una causa può essere uno stato infiammatorio, volevo sapere se poteva essere la causa. Ma che bella domanda che mi fa. Allora, le rispondo proprio il senso del congresso che ha citato prima Nicoletta, è proprio questo, cioè di rendersi conto che alcuni aspetti legati all'infiammazione, legata alla nutrizione e quindi ai cibi che mangiamo, in realtà innalzano certe sostanze infiammatorie nell'organismo. Nel suo caso io mi immagino una sostanza, potrei dire che si chiama Giuseppe o BAF o quello che sia, cioè una sostanza qualsiasi che contemporaneamente le irrita lo stomaco, le irrita l'intestino e contemporaneamente attiva un'altra sostanza che è il fibrinogeno, che in realtà c'entra di più con la coagulazione del sangue, con i processi venosi, ma che anche lui è un'espressione di infiammazione. Quindi lei ha già, vede perché a volte questa cosa manca, lei ha nei suoi esami un'indicazione di infiammazione e in realtà questa cosa viene poco considerata. Invece è un tema importante in cui anche degli strumenti semplici come quelli alimentari possono dare un aiuto grande. Capito. Hai visto, attraverso la tavola passa il nostro benessere, la nostra salute, la prevenzione. Non siamo i primi a dirlo, però. Infatti, ce l'avevano detto in tanti, da Ippocrate, fa che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo. Noi abbiamo fatto finta di niente, ci siamo seduti, abbiamo iniziato a mangiare grandi quantità e di scarsa qualità e adesso fine tutto torna. Molto bene, noi stiamo andando verso la chiusura della trasmissione, magari ne approfitto per leggere l'ultimo messaggio da parte di Antonio al 349-238-6666, luce e gas, due operatori diversi. Telefonata del call center del gas, insiste perché prenda la bolletta e gliela legga. Il mio rifiuto si altera e lui chiude la telefonata, e che mi pare che sia un po' così da fare. Non leggiamo niente a nessuno, perché se leggiamo il codice sbagliato ci troviamo ad essere passati ad un altro operatore senza a nostra insaputa, rendercene conto, come Scariola invece... che ha comprato le case qua, battutaccia finale. male. Vabbè, però, vabbè. Dai, è così. Adesso perché ha fame a quest'ora, sì, Deborah. Nonostante faccia una buona colazione. Grazie ai nostri ospiti. Sì, è vero. Tra l'altro la sto sempre implementando con la scusa che il dottor Speciani ci suggerisce di farlo. Grazie a Cristina Corazza dell'Autorità del Gas e dell'Energia. Grazie a voi, davvero. A presto. Al dottor Attilio Speciani. Un grazie a tutti voi. E buone noci a tutti. A Fabio Cantadori in regia alla parte tecnica. A Laura Vanossi in redazione. Benissimo, c'è anche Camilla di là. C'è anche Camilla, perfetto. La vedo con la sua frangia. Noi torniamo domani e buona giornata a tutti.